Luigi Addò, so che canta una canzoncina che accompagna la storia, che accompagna questo così appassionato amore di Leon, c'è la chiave che è rimasta dentro, fatto che non venga un appuntamento. Infatti quello che noi stiamo la chaleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, niente. A partire dal capitolo sesto, 1, 2 e 3. 3. Ed è il capo verso, è il venito di partire esasperato. È il delitto da tira esaspera. Leggo lì gentilmente 160. 360. Oh. E mentre stiamo leggendo però queste cose, vorrei che non dimenticaste quelle che io continuo ad accennarvi, che non sono state oggetto di lettura completamente, perché non è l'intenzione di scegliere. Ma dovete pensare che il problema del denaro, sapete che cos'è il denaro? È il problema degli euro, perché c'erano anche gli euro. È fondamentale, perché la Bovary, questo è un punto centrale della questione, la Bovary disperatamente, attenzione ragazzi, non sparfugliate tra di voi, vuole essere dite ai vostri compagni che devono venire a lezione, avete capito? Quelli che ci sono, niente registrazioni, perché se no all'esame vi, non ho detto la parola, però alcuni di voi l'hanno capita, le persone che mancano devono venire, voi dite, ma noi chiediamo risposta, ma siccome anche voi mancate sappiate che dovete venire in queste ultime lezioni, chiaro o no? Bene. Il problema del denaro è impellente. E perché è impellente? Perché si è indebitata. E perché si è indebitata? Per farsi più bella, per comprarsi delle cose che le diano di vivere in un'atmosfera non tetra, non squallida. E quindi è un continuo cedere alle offerte di un perfido venditore di cui vi ho fatto più volte cenno, che si chiama Leroux, il quale è un bastardo perché si comporta come un qualunque usuraio. Sapete come? Non vi auguro mai di essere vittima di un usuraio. Il usuraio non ti fa pagare subito, ti fa pagare dopo, fa pagare dopo, e poi non ti fa pagare tutto perché specula sugli interessi che si ammontano nel frattempo. Insomma, tutta quest'ultima parte del romanzo, oltre che essere una tragedia per i motivi che stiamo per vedere, la delusione di questa donna di fronte all'amore che non esiste, è anche una tragedia parallelamente dal punto di vista economico. E qui occorre almeno qualche indizio largo. Come fa lei a stare a Rouen tanto tempo all'Hotel de Boulogne con l'amico Fritz? Con quale scusa? La scusa è che prende lezioni di pianoforte da queste signorine Lamperer, e avviene un dialogo crudamente spassoso, come Flaubert accusa avere, quando Charles dice a Emma, dice, ho visto queste signorine Lamperer, ne ho incontrata una, gli ho fatto il tuo nome e tu ci vai sempre, però mi ha detto che non ti conosce. Voi capite, è un alibi spaventevole. Allora lei con prontezza dice, avrà dimenticato il mio nome. Charles, stupido, le dà la possibilità di salvarsi dicendo, forse ci sono parecchie, pensate a questa cosa meravigliosa, parecchie signorine Lamperer a Rouen che insegnano pianoforte. Lei non ascolta nemmeno la bêtise del marito e dice, ma non ti preoccupare, però da qualche parte ho le ricevute, e infatti fa spuntare delle ricevute di cui non si sa, che evidentemente si suppone siano fasulle, siano finte, in modo che il marito stia tranquillo. I bei vestiti sono importanti quanto gli uomini, ancora lì, non è un fatto, e questa è un'osservazione che abitualmente non mi pare che si faccia, non è un fatto marginale rispetto al popalismo, che è opportuno finalmente definire che cosa è questo popalismo, che è diventato una sorta di luogo comune. Tutti sanno cos'è il popalismo, tutti. Se voi andate dal portiere di casa vostra e glielo chiedete, saprà rispondere. Che cos'è il popalismo? Il popalismo è la tendenza a voler alzarsi sopra il livello complessivo di vita nel quale si vive, nel voler smaniare per arrivare a un livello di vita diverso, non diciamo superiore, ma diverso. Quindi ogni moglie sogna un uomo diverso dal marito. Bovarismo è una tendenza che nasce, il nome naturalmente, da Madame Bovary, evidentemente, ma c'è anche un bovarismo maschile, evidentemente, che si manifesta in altro modo, ma c'è un bovarismo maschile. Comprarsi dei vestiti, essere bella, è importantissimo. Probabilmente molte di voi avranno vissuto questa esperienza, non i maschi più presenti, diciamo, che andando a un appuntamento il problema fondamentale era un appuntamento che a cui tenevate evidentemente, era di essere messa in ordine a dir poco, e se fosse successo qualche disastro orrendo, fosse spuntato improvvisamente un orrido furcolo coniato, tutto questo mi indisponeva profondamente. Io ho visto delle donne che dopo il parrucchiere, che prima del parrucchiere erano proprio diverse completamente, cioè in fondo questo miraggio di bellezza ha una sua tragica fatuità, come dice la canzone d'altra parte del cieco, ma d'altra parte ha una sua profonda umanità. Guai alla donna che non vuole essere bella. E già, intanto dal punto di vista dei quibus, chi paga? Allora a un certo momento ha trovato un sistema ulteriore per fregare la donna ricca. Il sistema è quello di dire: ma perché voi, anziché disturbare vostro marito, non vi fate dare una procura? Per cui, in buona sostanza, anziché chiedere soldi a lui, lui delega a voi le spese. Voi capite che in questo modo è la fine, perché lei è come un ubriaco, come un drogato. Immaginate di dare una procura dei propri beni a un drogato, e qui i propri beni sono finiti, i tuoi beni sono finiti, un batter d'occhio evidentemente. Comunque non dimenticate mai che mentre il fatto economico è relativamente importante agli inizi di questo romanzo, da un certo momento in poi diventa travolgente e confluirà come due fiumi che confluiscono nel vede, confluirà nella tragedia sentimentale. Confluirà nella tragedia sentimentale. Intanto vi stavo dicendo, e siamo al capitolo 38, sì, il cui titolo è La stringa del corsetto. Lei ha avuto questo appuntamento mancato, da qualcosa si è molto sdegnata, e diciamo cosa scrive. Se ne era andata, perché dopo un appuntamento la signora non la si fa aspettare. Se ne era andata esasperata, lo detestava adesso. Questa mancanza di parola agli appuntamenti le sembrava un oltraggio e cercava ancora altre ragioni per distaccarsi da lui. Era incapace di eroismo, debole, banale, più molle che una donna, avaro d'altronde, pusillanime. Poi, calmandosi, finì per scoprire che aveva senza dubbio calunniato. Sans doute in francese vuol dire senza dubbio. Va bene. Ma per dire senza dubbio si preferisce normalmente il senso sans doute, per cui sans doute si può anche tradurre, spesso si traduce con probabilmente, quindi qui forse era proprio questo probabilmente che l'aveva provato. percezione di coloro che amiamo ci distacca sempre un po' da loro, ma la denigrazione di quelli che amiamo ci distacca sempre un po' da loro. Non bisogna toccare gli idoli, la doratura ci resta in mano. Vennero a parlare più sovente di cose indifferenti al loro amore, e nelle lettere che Emma gli mandava si trattava di fiori, di versi, di luna, di stelle, risorse ingenue di una passione indebolita che cercava di ravvivarsi con tutti i soccorsi esteriori. Ella si riprometteva continuamente per il suo prossimo viaggio a Guam una felicità profonda e poi confessava a se stessa di non sentire niente di straordinario. Quella delusione spariva sotto una speranza nuova ed Emma tornava lui più infiammata, più avida. Si spogliava brutalmente, strappando la stringa sottile del corsetto che sibilava intorno ai suoi fianchi come una biscia che scivola. Andava in punta di piedi nudi a guardare ancora una volta se la porta era chiusa, poi faceva, in un solo gesto, cadere tutti insieme i vestiti e pallida, senza parlare, seria, si abbatteva contro il suo petto con un lungo brivido. Tuttavia, c'era su quella fronte, coperta di gocce fredde, su quelle labbra palpettanti, in quelle pupille sbarrate, nella stretta di quelle braccia, qualcosa di estremo, di vago e di lugubre, che sembrava alle onde insinuarsi fra loro sottilmente, come per separarle. Lui non osava fare domande, ma vedendola così sperimentata nelle cose del sesso, aveva dovuto passare, si diceva, attraverso tutte le prove della sofferenza e del piacere. Quel che un tempo lo affascinava, adesso lo spaventava un po'. D'altronde si rivoltava contro l'assorbimento da parte sua. Ogni giorno più grande della sua personalità, e aveva del risentimento per Emma, per questa vittoria permanente. Si sforzava, anzi, di non amarla. Poi, allo scricchiolio dei suoi stivaletti, si sentiva vigliacco. Come gli alcolizzati alla vista dei cuori forti. Vediamo questo capitoletto nostro. Ricorderete che parlando dell'ideale di uomo e soprattutto vedendo come Charles fosse lontano da questo ideale, continuamente rimprovera Charles, come sapete, di essere minetto, è il momento culminante. È la famosa storia del Pierrot, quando Charles dovrebbe mostrare la sua abilità, sbaglia l'operazione e addirittura si chiede se non avesse proprio sbagliato a ritenere il piede storto da una parte anziché dall'altra. Un uomo, diceva lei, deve saper far di tutto. È un'immagine romantica, ingenua, stupida, di lei, di Emma, ma in cui Flaubert vuole mostrare come ci sia una tragica stupidità femminile. Flaubert è diviso, questo è opportuno sottolinearlo, fra due sentimenti opposti nei confronti della donna, che è il pensiero che ha occupato tutta la sua vita, come dice. C'è una passione viscerale nei confronti di questa donna corpo. Vi ricordate che l'avevamo qualificato il dio, ve lo ricordate? Il dio oca. Ma mentre diciamo dio oca, vediamo quindi che la passione si unisce, come già a suo tempo si era detto, a una sorta di misoginia. In realtà, se noi guardiamo con sottigliezza questo amore viscerale e questa misoginia, vediamo qualcosa di interessante, secondo me, che sono proprio i due aspetti del sentimento che noi abbiamo nei confronti di Dio, o chi per lui, della divinità. Non so se avete mai pensato che la bestemmia può rappresentare senza alcun dubbio così lo sbadato sfogo furibondo di una persona a cui sia capitato qualcosa di crescioso, ma rispecchia anche un odio a cui la persona, il Dio a cui tieni, è che ti ispira. Insomma, una figura di amore noi riusciamo a odiarla. Forse il caso in realtà più clamoroso è quello dei propri genitori. Insomma, qual è la persona in buona fede, tendenzialmente in buona fede, visto che tutti un po' o molto in mala fede lo siamo a un certo momento dell'esistenza, non quando avete i vostri bellissimi visetti freschi, ma molto più avanti, giudicando i suoi genitori che sono morti nel frattempo, non ha sentimenti quantomeno opposti. Chi è il cretino che dice i miei genitori erano meravigliosi? Non è possibile. Masticherà rabbia, odio anche nei confronti dei genitori che pure sono legati a lui visceralmente, ma dei genitori che non si libera. Ma in realtà, come vedremo fra poco, dell'amore vero, che è uno o due volte nell'esistenza, una volta forse, non ci si libera, dice Flaubert, mai. Cioè, uno può pensarci, puoi passare ad altri amori, come dice lui, ma insomma uno non si libera mai, questo è il punto. Quindi se lo porta nella tomba, se lo porta nella tomba. Ma i nostri sentimenti sono sempre doppi, quindi questa misoginia, questa rabbia nei confronti della donna, non è un qualcosa, come è un altro sentimento che lui ha rispetto all'adorazione del Dio Oca. No, è proprio il risvolto, per così dire, non il risvolto della medaglia, potremmo dire. Lo trova stupido. Nessuna donna può trovare stupido il proprio uomo continuando ad amare. Non è possibile. Io posso trovarlo brutto, ma non posso trovarlo stupido. Lo trova stupido e poi gli trova certi difetti che una donna romantica non sopporta, egoista, debole, banale. Guardate quanto poco femminista è Emma Bovarino. Lo dice più molle di una donna, cioè prende il suo sesso come esempio di vita e di mollezza, no? Poi, naturalmente, non so se vi ho segnalato mai una cosa di una pagina, forse l'ho segnalato, però probabilmente sì, di Kierkegaard. Ve ne ho parlato mai? Dovreste leggerlo, è una cosa bellissima. Kierkegaard, il grande filosofo danese, come sapete, uno dei più grandi scrittori, oltre che filosofo che siano esistiti, ma filosofo, uno scrittore meraviglioso, in Out Out, nel terzo libro di Out Out c'è una storia, scrivetevi questa annotazione, che riguarda una donna che accusa il suo amante, ed è estremamente, mi è venuto in mente perché è estremamente simile a questa situazione, che si chiama Marie Beaumarchais. È proprio un capitolo a parte, Marie Beaumarchais, e fa parte della zona di Out Out che si intitola, mi pare, Silhouette. Ed è il profilo di una donna che fa un interrogatorio di accusa al marito e dice: questo è un bastardo, io mi sono fidata di un bastardo. E fa un lungo meraviglioso come Marie Beaumarchais, Beaumarchais come Beaumarchais, Beaumarchais, ma vale veramente la pena che lo leggiate. E dopo che ha fatto questo interrogatorio, dopo che ha fatto questo, sì, è espresso questo giudizio, dice: no, mi sono sbagliato. La grande domanda. dice, no, forse mi sono sbagliato, io sono una carogna, non gli ho creduto. È uno che mi ama, non può essere un ingannatore uno che mi ama in questo modo. Non mi ha mai parlato di questo? Ah, per parlare, se me ne avevo questo non mi veniva in mente. Allora via, allora ditelo. Al terzo anno. Comunque c'è tutta un'alternanza di interrogatori. Uno si conclude favorevolmente, l'altro si conclude invece con un giudizio di condanna, ma sostanzialmente quando noi amiamo qualcuno e però abbiamo dei motivi di detestarlo, di odiarlo, prima di abbandonarci al nostro odio per sempre, cerchiamo disperatamente, con la testimonianza di amici, di trovare delle scuse. Perché le separazioni coniugali avvengono nella proporzione di un centesimo di quello che dovrebbero avvenire? Perché non si dicono certe cose, non si vogliono ammettere. Ma guardate un po', le violenze carnali che avvengono all'interno di una coppia non vengono confessate per vergogna, perché uno non vuol vedere, perché uno non vuol sapere, insomma, no? Quindi potete immaginare, uno prima di dire mio marito è una carogna ci pensa 100 volte. Quindi nella fattispecie qui, lei non vuole rassegnarsi, e dice a un certo punto Flaubert una cosa bellissima: non si può denigrare la persona che amiamo, il nostro idolo, perché sapete qual è il rischio che ci corre? È spaventoso. L'idolo è dorato, come sapete, l'idolo è dorato. E dopo che l'abbiamo denigrato, un po' della doratura ci rimane sulle dita. Se io dico che quell'uomo è un bastardo, dopo che l'ho detto, ci ho pensato, poi dico no, non è un bastardo, ma il fatto che l'abbia detto, che abbia ragionato in questo senso, qualcosa mi rimane dentro, non è più come prima. Capite? Non è vero che i litigi in una coppia siano salvifici sempre. È una balla colossale. Dopo il litigio, il perdono è tutto, sappiatelo, scrive il capo del letto, rimane un sedimento di rancore, piccolo, sottile così, ma poi si accumula nel tempo. Capite? Si accumula. Che cosa fa una donna che si trova ad avere un idolo semidistrutto tra le mani? Dice qui, usando un'espressione molto scopa, perché si illude che nel sesso in qualche modo le cose possano migliorare. E lei si dedica al sesso, se così posso dire, come vediamo qua, in modo terapeutico. Cioè è come se andasse a fare una ginnastica, come se si illudesse nel piacere fisico di poter dimenticare le cose che non vanno, no? Il titolo che ho dato a questo capitoletto è La stringa del corsetto, perché c'è qualcosa di meraviglioso. Dice, si spogliava brutalmente, cioè voleva arrivare rapidamente alla cura, perché non vedo dubbio che se piacere sessuale c'è, e lei è una donna giovane, è focosissima, e orgasmo c'è, è come un po', insomma, si dedica sostanzialmente alla pesade, diciamo così, come uno che ha mal di testa, mi sta venendo in mente in questo momento, e ha un'aspirina, il mal di testa è forte, quindi cerca di prendere prima possibile l'aspirina perché gli passi il dolore di testa, no? La descrizione che viene qui fatta del sesso è tra le più assolutamente sconvolgenti, e come sempre le descrizioni del sesso efficaci non sono quelle a Henry Miller, ricolme di parole oscene, eccetera. Qui c'è un gesto, si slaccia, a quell'epoca le donne portavano il busto o corsetto, per dirsi voglia, sempre. Il laccio del corsetto la frusta sui fianchi, leggete sui glutei, la frusta, ed è ovvio che che tutto questo è non solo per un uomo, ma per una donna, è gigante. Questa stringa che la rende rossa in quel punto della carne, che le sibilava intorno ai fianchi come una biscia che scivola. Poi c'è una scena meravigliosa. È una donna che sta per compiere un atto di intimità, e come tutte le donne che stanno per compiere un atto di intimità, particolarmente anche gli uomini, ma insomma soprattutto le donne, va a vedere se la porta si è chiusa. Allora Flaubert avrebbe potuto dire che andava ad assicurarsi che la porta fosse chiusa. In realtà dice qualcosa Flaubert di un pochino diverso. Dice che andava ad assicurarsi che la porta fosse chiusa in punta di piedi, piedi nudi. Allora, che cosa vi ricorda una bella ragazza che cammina sulla punta dei piedi nudi? Cosa vi ricorda? Lo dice lei? La vede una ragazza spogliata che cammina sulla punta dei piedi? Bucolica, andiamo! Una ballerina. Cosa? Una ballerina. Bravissimo, è una ballerina. È una ballerina. Allora, guardate l'arte in che cosa consiste. Qui c'era da dire che lei andava a chiudere la porta. Va bene? Molto importante per questo, perché questo significava che lei non è una puttana che è disposta a fare le sue cose davanti a tutti. Lei è una madame, è una signora. Quindi per fare certe cose vuole un esempio. Però perché il lettore capisse bene questo, ci voleva un'immagine. Un'immagine. E Flaubert ha avuto questa idea geniale di immaginarla come una ballerina. D'altra parte, la ballerina che cosa ci evoca? Una ballerina ha fatto i piedi nudi, una ballerina classica, evidentemente. Cosa ci evoca? Ci evoca la leggerezza, la finezza. Chi di voi si è interessato, come io mi auguro, perché altrimenti non spero che non potrebbe stare qui, chi di voi fosse interessato allo spettacolo, al cinema o al teatro, sa che un regista, quando deve rappresentare qualcosa, ha un problema, quello di rappresentare una certa situazione con la maggiore concisione e casticità possibile. E quindi come si fa a rappresentare una donna seminuda che va alla porta? Se tu la rappresenti come una ballerina, il lettore ce l'avrà, il lettore, lo spettatore ce l'avrà per sempre qui in mente. Dopodiché torna da lui. I vestiti, le mutandine, le lascia crollare giù. Dice che andavano giù tutte in un solo colpo i suoi vestiti. Ma com'era lei? Era pallida. Ora io vi posso dire che quando una persona è molto felice nel fare l'amore, e lo comprende anche voi stessi, mi auguro per le vostre personali esperienze, non è affatto pallida. Non è affatto pallida. Le maschere, lei è pallido? Con chi avrebbe dovuto incontrarsi? Come con chi avrebbe dovuto incontrarsi? Mi ha parlato che l'assessamento ha mandato con Leon? Con Leon? Beh, uno basta, insomma. Sarebbe stato, la sua domanda è un po' sconcertante, sconvolgente, veramente surrealista. Ha messo la sua domanda un tocco di volontà e genialità in tutto questo. Cioè, se mi chiedi chi è il protagonista della scena, è chiaro che Leon è il protagonista della scena, no? Che non è, chi può essere? If you know what I mean. Dunque, pallida, come vi ho detto, sul colore io non ho alcuna. in cui il nostro Antonio aveva messo la pena di morte in Italia avrà, che so, stuprato un bimbo e sarà condannato a morte. Non si può dire nulla, non si può dire nulla. Antonio, andando al patibolo, sarà pallido. Se tu vai a prendere il risultato di una visita medica di cui hai motivo di temere, sei pallido. Ma quando uno fa morte, io vi posso assicurare, proprio mi potete credere, se nessuno l'avesse mai fatto, un po' di cose di cui dubito altissimamente, mi potete però credere sulla parola, non si è pallida. Lei è pallida perché è in una situazione di dolore e di sforzo e di tensione e di desiderio sessuale. Ma capite, il desiderio sessuale è una bellissima cosa se è unito anche, ascoltate bene, a un'adesione sentimentale. Sono idee di altri tempi? È possibile. Però io ritengo che il desiderio sessuale da solo, senza un'adesione sentimentale, sia molto dentro, molto triste. E si abbatte. Ma quando dice che si abbatte sul petto di lui, mi viene in mente un animale che muore. Se io sparo a un uccello, l'uccello si abbatte per terra, quindi lei si abbatte sul suo petto come se fosse morta. E qui ci sono i sintomi tipici naturalmente di una persona che ha una forte eccitazione sessuale, cioè palpetta, le pupille sono sbarrate. E attenzione, questo fatto del suo dolore, del suo malessere mentre fa questo violento atto sessuale non sfugge al partner. Il partner, che sarebbe Leone, informarvi, perché ci possono seguirci ulteriori, è chiaro, no? A questo punto no, perché lei vedeva che dubitava che fosse lei, è Leone sempre, è intendiamoci bene. Lei si chiama? No, perché ho visto che Noemi prima dubitava che fosse Leone, è sempre Leone, sia ben chiaro. Estremo, di vago e di lugubre, è come una premonizione di quel che sarà. Beh, insomma, se io chiedessi, io ci lo chiederei assolutamente, una cosa, se io immaginassi che Gio voglia fare l'amore, lei è una del fidanzato o no, che io, per Dio! Però sanno, Gioia sa che dopo aver fatto l'amore, guardate il testo, muore. Io voglio vedere come lei fa l'amore. Voglio vedere. Lui avverte come la morte si fosse insinuata fra di loro, questo estremo vago di lui. E qui c'è un'altra considerazione da fare. Come muore una donna? Che sia vergine, oddio, guardi, questo soltanto gli islamici pensano di poter avere dopo la morte 77 vergini, ma è una cosa terrificante, insomma. No? Insomma, se tu fai un atto terroristico, poi avrai 77 vergini, ma c'è da spararsi in bocca all'idea. Ma una donna troppo collaudata, quella che Gioia chiamerebbe una nave scuola. Nemmeno. Lui inizialmente gli piaceva questo fatto che la donna fosse così esperta. Se non che adesso avverte quindi lo sta succhiando. Questo è anche molto bello, perché per esempio ci sono, se siete, questo capita assolutamente da parte delle donne, recentemente ho avuto un caso di una donna che ha avuto un rapporto in America e il proprio poveretto ha dovuto chiamare la polizia perché lei non voleva più staccarsi, è una cosa terribile. Si è chiuso in una stanza. Quello che è terribile è quando tu assorbe la tua personalità. Questo può avvenire naturalmente nel sesso, ma non solo. Una volta in Italia, poi l'hanno tolto, c'era il reato di plagio. Quando uno seduce una persona e la rende incapace di intendere di volere. Quello che Leon sente con la sua debolissima personalità è che non è solo un fatto fisico, è che proprio Emma lo sta succhiando e ne ha paura. Questa donna così collaudata lo sta succhiando. Quindi decide di non starci più insieme. È tuttavia, è sufficiente nella debolissima resistenza maschile alle attrattive del sesso sentire lo scricchiolio dei suoi stivaletti che tutta la sua forza cada. Voltiamo la pagina. I primi mesi del suo matrimonio, accenniamo a questo capitoletto, il titolo 39 è Le delusioni dell'amore, e comincia con Le premiers mois de son mariage. Le premier mois, la pagina subito dopo, qualche riga dopo. Le premier mois de son mariage, i primi mesi del suo matrimonio. Siamo? Le delusioni dell'amore. I primi mesi del suo matrimonio, le sue passeggiate a cavallo nella foresta, il visconte che danzava, i lagartini terrore che cantava, tutto che passò davanti ai suoi occhi, e Leon le apparve improvvisamente nella stessa lontananza degli altri. Quando uno è innamorato di qualcuno, la persona di cui sei innamorata è come se fosse attaccata a te. Quando sei meno innamorato, la persona si allontana, è come se si congiungesse con le persone che hanno appartenuto al tuo passato. E allora lei si dice, ma io però l'amo, si dice, non importa. Ascoltate cosa dice, non era felice, non lo era mai stata. Da dove veniva dunque questa insufficienza della vita, questo marciume istantaneo delle cose alle quali si appoggiava? Ma se ci fosse stato in qualche parte un essere forte e bello, una natura valorosa, piena al tempo stesso di esaltazioni e raffinatezze, un cuore di poeta sotto forma d'angelo, lira dalle corde di bronzo, che risuonava verso il cielo in epitalami elegiaci, perché per un caso non avrebbe dovuto trovarlo? O com'era impossibile? Niente d'altronde valeva la pena di una ricerca. Tutto mentiva. Ogni sorriso nascondeva uno sbadiglio di noia. Ogni gioia una maledizione, ogni piacere il suo disgusto, e i baci migliori non vi lasciavano sulle labbra che un'irrealizzabile voglia di una volontà più alta. Questo je l'aime pourtant lo affido alla vostra meditazione, perché è proprio quello che una donna che ha un uomo e sente di non amarlo più dice a se stessa per convincersi che lo amo ancora, e però deve dire no, non è così, deve riconoscere che non è così, che non è più così, e allora deve riconoscere che non è mai stata felice. E dice, ma come mai uno non è mai felice? Com'è possibile non essere mai felice? Perché non dovrei trovare qualcuno che mi rendesse felice? E in conclusione nota che c'è una menzogna ininterrotta. Questa menzogna naturalmente travolge lei lezioni di piano a Rouen, lei che mente in continuazione al marito Charles, lei che mente a se stessa quando dice che ama ancora Léon quando Léon non l'ama più. Perché la condizione umana deve essere così, questo dice Flaubert, immersa nella menzogna e nell'infelicità? Prego. Thank you.